Lo so, signore, ma è mezzogiorno. Da 2 ore c'è un uomo che attende risposta a questo biglietto. Progetti avete? Potrei aiutarvi. L'ho già detto a mio padre. Vorrei tanto che non mi aiutasse nessuno. Ho deciso di non iniziare nessuna carriera. Ho ancora bisogno di attendere. Ma allora, se siete indeciso, avrete necessità di aiuto. No, perché non sono affatto indeciso. Voglio solamente scoprire da me, da solo, come è fatto questo mondo. Sono uscito dal collegio, mi sono reso conto che io non ho appreso nulla di ciò che può essermi utile nella vita. E di nuovo cambio casa, di nuovo cambiano le cose, di nuovo cambio luna e quartiere. Come cambia l'orizzonte, il tempo, il modo di vedere. Cambio posto e chiedo scusa, ma qui non c'è nessuno. Pensare allora paura di quelle false scienze che affermano senza mai provare niente. Invocando le qualità occulte della luna e delle costellazioni. Che cosa pensare? Sei sintonizzato su M2O, non è che stai ascoltando una radio a capocchie. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non ho ancora capito neanch'io che cos'è, però mi piace e tutti i giorni lo ascolto. Gigi D'Agostino, qualcosa fa. Non è che siamo qui a inzuppare savoiardi. Mi è venuta un'idea, ho trovato il modo di misurare l'umidità dell'aria. Adesso vi mostrerò che cosa ho escogitato. Guardate questi due nastri di carta. Il primo è nel suo stato naturale. Quest'altro, che ho in precedenza bagnato, si restringe asciugandosi. Con questo mezzo ritengo di poter misurare i differenti gradi di umidità, come si misurano con un termoscopio i differenti gradi di calore. Interessante. Sei sintonizzato su M2O, non è che stai ascoltando una radio a capocchi. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non ho ancora capito neanch'io che cos'è, però mi piace e tutti i giorni lo ascolto. The world, the world, the world, the world, the world, the world. letto i postmoderni con interesse, perfino con ammirazione. Ma quando li leggo ho sempre la sensazione molto fastidiosa che qualcosa di assolutamente essenziale venga tralasciato. Ogni volta che parli di una persona come di una costruzione sociale o come di una convergenza di forze diverse o come di un individuo frammentato oppure compatto, non fai altro che aprire le porte ad una marea di giustificazioni. Quando Sartre parla di responsabilità non sta parlando di qualcosa di astratto, non sta parlando di quel genere di io o di anima di cui discuterebbero i teologi, ma di qualcosa di molto concreto, come io e te che parliamo. Prendiamo decisioni, facciamo cose e ne accettiamo le conseguenze. Al mondo siamo 6 miliardi di persone e stiamo aumentando. Ciò nonostante, quello che fai fa la differenza. Fa la differenza innanzitutto in termini materiali, fa la differenza per le altre persone e crea un precedente. Insomma, io credo che da questo bisogna capire che non dobbiamo mai chiamarci fuori e pensare di essere vittime di una concomitanza di forze. Siamo sempre noi a decidere chi siamo. L'Oceano Atlantico, che ora separa Africa e Sud America, deve la sua esistenza a questo disastro geologico che squarciò la regione australe di Pangea. Il supercontinente era un ammasso roccioso composto più o meno dall'odierna Africa, dal Sud America, l'India, l'Antartide e infine l'Australia. La frattura iniziò in questo punto e si allungò fino a dare luogo a due continenti separati, il Sud America e l'Africa. Date le sue proporzioni, il processo si concluse in pochissimo tempo. La terraferma si aprì da nord a sud alla velocità di quasi 3 centimetri all'anno e dalla spaccatura fuoriuscirono lava e fiamme. Il tutto durò appena 5 milioni di anni. Siamo tra poco, rimanete lì, oppure anche un po' più là. Sali in sella, è suonata la campanella. Hola, potas, soy Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Me stava scappando una rima col mio nomignolo, ma era muy vulgare. All'ora sesta c'è la musica che pesta. Muovi un po' la testa. Cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare Tamara. La solitudine, ma bensì approfondendola, che gli esseri diventano capaci di comunicare. Louise Lavelle. Lavello quello per lavare i piatti. Ragazzi, sì, non è che siamo qui a piantare i piselli. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ti aspetta qui alle 18. Non abbiamo tempo da perdere. Penso che posso ballare con questo casino, mi posso esaltare. Al ritmo del lento violento, il cuore mi batte e vuole ballare. Accendo la radio a quell'ora perché c'è un maestro che voglio ascoltare. Il cammino è lento, violento e con un messaggio da catturare. Dal ritmo più duro a quello più dolce io mi farò trasportare. Perché quello che conta non è etichettare, ma è solamente amare. Amare la musica di questo cammino che non segue mode come un cretino. Signore e signori, dirigermi. vuoi giorni grigi, scrivi a Gigi. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Capito come? Dai, yes. Senti che roba, va. È il cammino del Gigi D'Agostino. Piacere di amare senza osare dirlo, ha le sue pene, ma anche le sue dolcezze. Pascal. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. La vita a volere che sia bella, sia Gaia, sia vita. Deve essere un arcobaleno, una tavolozza di colori. Tutti devono avere un biglietto per questo destino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Carlo Bini. Di sé per partorire una stella che danzi. Nietzsche. Il cammino di Gigi D'Agostino, una grande famiglia danzante. Suonata la campanella, sento che devo leggervi una cosa bella. Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente. Voltaire, Voltaire, Voltaire, Voltaire. È forte, Voltaire è forte. Gigi D'Agostino, un modo nuovo per entrare nel mondo dei balocchi.

guardo di là, ma vengo di qua. È il momento della pubblicità. È suonata la campanella e la musica martella. Il cammino di Gigi D'Agostino. Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento e mi passa lo sgomento. Passo lento ma violento. Effettivamente pittura, scultura, architettura e musica è la mediatrice e riconciliatrice di natura e uomo. È il potere di umanizzare la natura, di infondere i pensieri e le passioni dell'uomo in tutto ciò che è l'oggetto della sua contemplazione. Samuel Taylor, Coleridge. We'll be right back. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. Tutti gli amori dell'uomo, ancorché diversi, hanno lo stesso motore. Vittorio Alfieri. Il cammino di Gigi D'Agostino. Vuoi giorni grigi? Scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino. Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, Gigi, Gigi, Gigi D'Agostino. Ci sentiamo domani. Grazie.